Il bene di tutti, parliamone. Rubrica settimanale a cura della pastorale sociale e del lavoro della diocesi di Padova, a cura di Andrea Canton. È scoppiato un vero e proprio putiferio quando è stato annunciato che Rina Junior, figlio del capomafia Totò, avrebbe scontato il periodo di libertà vigilata proprio qui in Veneto, per la precisione a Padova, allo scopo di lavorare presso una cooperativa sociale. Nessuno sembra volerlo qui in Veneto, effettivamente pochi accetterebbero di avere come dirimpettaio una persona che, fin dal celebre cognome che porta, è così legata alla tragica storia d'Italia, in particolare alla storia della mafia. Ma nella girandola di prevedibili dichiarazioni pro o contro Rina, nessuno si ricorda che sono ben altri i mafiosi che arrivano nel nostro territorio e con ben altri scopi rispetto a quello di lavorare per una cooperativa sociale. I veri mafiosi in visita al nord non indossano la coppola, né tantomeno hanno la lupara in mano, né suonano coi denti lo scacciapensieri come nei film di Franco e Ciccio, ma sono vestiti bene e portano con sé una valigetta piena zeppa di denaro contante per infiltrarsi nelle maglie più profonde dell'economia del nord-est. Il traffico di droga e quello di uomini continua infatti a far affluire denaro contante nelle tasche della malavita anche in tempi bui di crisi come questo, e proprio le aziende in crisi, da poter inglobare a prezzi stracciati, sono un'occasione d'oro per il riciclaggio del denaro sporco. La mafia, insomma, è molto più vicina di quello che possiamo immaginare. Prima di parlarne con Don Giorgio De Checchi, responsabile di Libera per la diocesi di Padova, ascoltiamo uno stralcio di un documento della CEI prodotto nel 1991, anni in cui la mafia faceva veramente paura. Dal documento Educare alla legalità della Conferenza Episcopale Italiana. Se la convivenza umana, in forza della stessa natura sociale dell'uomo, ha sempre richiesto un sistema di leggi ordinato e coerente per regolare i rapporti fra i soggetti e fra i cittadini e lo Stato, questa esigenza si è fatta particolarmente forte e urgente nel nostro tempo, a motivo della società complessa, nella quale i bisogni emergenti non sono soltanto quelli elementari. La rincorsa al bene avere spesso ha oscurato l'esigenza del bene essere, la burocratizzazione della vita nel rapporto tra il cittadino e lo Stato ha accresciuto la dipendenza dal potere. Soprattutto la Costituzione e la proliferazione di organici gruppi di potere alternativo, disponendo di reti relazionali e di ingenti mezzi economici, ha consentito pressioni e persuasioni, anche occulte, nella linea della irresponsabilità. Abbiamo con noi Don Giorgio De Checchi, parroco di Sant'Anna di Piove e rappresentante per la diocesi di Padova di Libera Associazione. Grazie per la sua disponibilità. Grazie a voi e un saluto a tutti quanti coloro che ascoltano. Questo documento della CEI è stato scritto nel 1991, un'epoca in cui la mafia faceva veramente paura. Basti pensare alle stragi che avrebbero avuto luogo l'anno seguente. Sì. Queste parole, potere alternativo, insomma, e il passaggio dal bene avere e che ha oscurato l'esigenza del benessere, le sembrano attuali anche oggi nel 2012? Ma indubbiamente quella nota ha un'attualità ancora straordinaria e sicuramente i pericoli a cui mette in guardia questa nota sono ancora oggi molto molto evidenti. Quindi è indubbio che una riflessione sulla legalità, ma anche una riflessione seria sulla mafia, sul potere mafioso, è una riflessione per esempio sull'importanza che si dà al denaro e l'importanza che si dà alle persone, a ciò che davvero conta nella vita. Abbiamo parlato prima della notizia delle scorse settimane con Rina Junior qui nel Veneto, in particolare a Padova. Sì. Ma chiaramente questa non è la presenza della mafia nel nord-est. In che modalità, in quali forme è presente la malavita? Ma indubbiamente già anche gli inquirenti ci dicono che il Veneto, il Triveneto, il nord Italia non è terra di mafia, nel senso che la mafia, forse a esclusione dell'Interland milanese per i processi che sono avvenuti, ma nel nostro Triveneto la mafia non ha messo radici, non è che abbia un controllo del territorio. Però è indubbio che gli stessi inquirenti ci dicono che le aziende, le imprese, le persone che pensano di poter accedere con facilità ai soldi sempre disponibili delle grandi chiosche mafiose o della criminalità organizzata in stampo mafiosa, è un problema serio. C'è quella, non si sa se è ingenuità o poca intelligenza del pensare che si possano utilizzare i capitali mafiosi e allo stesso tempo poter essere indenni dalle conseguenze. Ecco, questo è un aspetto che i vari processi anche in corso ci stanno mettendo tra le mani e ci pongono all'attenzione, e cioè il fatto che la situazione economica, la crisi molto forte che le imprese stanno vivendo, fa cadere nell'equivoco certe persone nel pensare che in fondo, se i soldi ci sono, in un momento si possono anche utilizzare e poi me ne tiro fuori. Sì, quindi insomma non solo la mafia che tenta di riciclare i suoi soldi in aziende, ma le stesse aziende che vanno in cerca di credito proveniente. Esattamente quello che anche ci fa riflettere le varie sottolineature della magistratura e anche delle persone delle forze dell'ordine, ci dicono che qui non solo è un problema di mafia che offre, ma il problema è che c'è un mercato, tra virgolette, di richiesta da parte di situazioni di crisi molto forti, che peraltro conosciamo e non ci sono del tutto strane, insomma. Può essere quindi anche questo un effetto della mancanza di credito alle imprese, che viene tanto lamentata, insomma? Sì, beh, sicuramente è una situazione che trova in questo contesto dove i soldi non sono così facilmente possibili, o il credito non è così facilmente possibile per le imprese, sicuramente crea un terreno. Ma noi non vogliamo cadere nell'idea che l'occasione fa l'uomo ladro, cioè il discorso è che sicuramente c'è una crisi economica. Quando il presidente di Confindustria di Venezia ci ha detto, in un momento in cui si è firmato il protocollo con Libera e le Camere di Commercio, ci ha detto che è interessante ed è importante che le persone che fanno impresa si rendano conto che non è un fallimento delle persone o della persona quando si viene incontro a delle difficoltà. Non possiamo identificarci con i soldi, non possiamo identificarci con le cose che facciamo. Sfortunatamente noi veneti abbiamo la tendenza a appiattirci, vorrei dire, senza offesa per nessuno, con quello che si fa e con quello che si realizza. Quando una impresa è sull'orlo del fallimento, avere anche il coraggio di dire sì, probabilmente devo verificare il perché e il come, ma tentare di arrampicare sugli specchi, tentare in tutti i modi, evadendo il fisco, facendo cose illecite, non pagando gli operai o facendo cose strane, richiedendo capitali non chiara provenienza, ecco, è indubbio che ci mettiamo in situazioni pericolose che sembrano all'inizio poter risolvere un piccolo problema o un problema reale, e ci sembra di poter con poco costo risolvere, e in realtà ci stiamo impantanando, e soprattutto diamo credito ad un'idea che i soldi e l'esito del mio fare vale più delle persone, vale più dell'onestà, vale più di un bene comune. Grazie infinite, ci fermiamo qualche istante e torniamo fra pochissimo. Il bene di tutti, parliamone. Rubrica settimanale a cura della Pastorale Sociale e del Lavoro della Diocesi di Padova. Bentornati a Il Bene di Tutti, parliamone, sono Andrea Cantone, in collegamento abbiamo Don Giorgio De Checchi, parroco di Sant'Anna di Piove e rappresentante dell'Associazione Libera. Grazie per essere con noi. Grazie a voi e un saluto ancora a tutti. Abbiamo parlato del rischio che la mafia possa mettere le mani, diciamo, anche nell'economia del Nord-Est, ma un cittadino normale cosa può fare per combattere la mafia anche con gli scarsi mezzi che un libero cittadino possiede? Ma io credo che soprattutto, come anche Luigi Ciotti spesso ricorda, il problema della mafia non risiede nella mafia, ma in ciò che gira intorno alla mafia. E cioè, mi spiego, se non ci fosse una cultura poco attenta alla legalità, se non ci fosse una cultura diffusa che non rispetta il bene comune, noi non staremmo parlando di queste cose. Quello che voglio dire è che il singolo cittadino, ma noi tutti, siamo invitati a riconsiderare le cose che contano. Certo, in un momento di crisi, in un momento in cui, guardando il portafogli, ci vediamo in difficoltà ad affrontare le spese che abbiamo sempre ritenuto normali, ecco, è indubbio che tentazioni possono venire, ma anche fuori dubbio che è arrivato probabilmente anche un momento di dirci e ricordarci che cosa davvero vale nella vita. E cioè, il cittadino che cosa può fare? Guardare che, e rendersi conto che il proprio bene non è fuori, non è un'altra cosa da un bene che è comune e un bene che sia diffuso. Quando si guarda esclusivamente al proprio tornaconto personale, quando si guarda esclusivamente a quello che interpella la mia vita e quelli dei miei vicini e basta, si perde di vista qualcosa di importante e di fondamentale, che è il bene del contesto, del territorio dove sono. Chiedere la ricevuta quando si va in un negozio. Pensare che sì, i soldi sono importanti, ma se non ci sono i soldi, invece di andare in cerca da qualsiasi parte, pensare che ci sono anche proposte per rendere più essenziali i nostri consumi. Andare a cercare ciò che davvero serve e lasciar perdere ciò che magari momentaneamente potremo anche far senza. Ecco, sono soltanto delle piccole, forse anche troppo semplici indicazioni, ma che vanno in una direzione chiara, e cioè i soldi non sono la cosa più importante della vita, sono importantissimi, ma non sono la cosa più importante. E chiaramente su questo la malavita ci marcia, dato che... Indubbiamente i mafiosi sono tali per i soldi, per il potere che i soldi dà. Noi togliamo il peso ai soldi, relativizziamo il potere dei soldi e relativizzeremo anche la mafia e tutta la criminalità di stampo mafiosa. Abbiamo parlato di legalità. È una parola che purtroppo viene ripetuta talmente tanto che purtroppo ne abbiamo anche perso il significato originale. Ce la definirebbe, e poi con più legalità la nostra società come sarebbe? Guarda, prima tu hai citato il documento dei Vescovi, no? Educare alla legalità, e a detta di tanti credo che ci sono state poche definizioni di legalità così precise e opportune. Il testo dei Vescovi del 91 dice: legalità è il rispetto e la pratica della legge, è un'esigenza fondamentale della vita per promuovere il pieno sviluppo della persona umana e la costruzione del bene comune. Se parliamo di legalità è solamente per questo, perché è un modo, attraverso la pratica della legge, di promuovere lo sviluppo della persona e il bene comune. E cioè sono delle regole, no? È un mezzo la legalità, non è un fine ovviamente, perché il fine è il bene comune, il fine è una maggior giustizia, è una maggior diffusione del bene, no? attorno a noi. Ma senza un regolamento comune, senza un campo in cui tutti possiamo giocare con le stesse regole, è certo che questo bene comune è difficile trovarlo. Certo, noi abbiamo l'idea dei super uomini, delle super persone che possono andare fuori le righe. Ci sembra che viviamo in una cultura in cui sono proprio bravi coloro che sono oltre i limiti e oltre le righe. Ecco, pensare invece a una dignità diversa, fondata su quello che una persona è e non per quello che uno ha o per quello che uno furbescamente riesce ad evadere o a fare, questo è proprio un cambiamento di mentalità che ci farebbe soltanto che bene. Quindi chiaramente mettere in secondo piano l'individualismo di questi ultimi 30 anni e ritornare proprio al bene di tutti come scopo dell'azione di ciascuno. Sì, e trovare che nel promuovere il bene dell'altro trovo il vero e senso, profondo senso della mia esistenza. Non è, noi cristiani questo lo troviamo nel Vangelo in tutte le salse, non è promuovere in modo esasperato la mia individualità o il mio benessere che mi dà pace, che mi dà serenità e che infine mi dà felicità. Solamente quando trovo che la mia vita ha una dignità così grande, è riconosciuta da un sistema di leggi, di attenzione, da persone, noi diciamo da un Dio che ci accompagna e che ci ama, quando io riconosco questo bene in me, so anche che questo bene sento la necessità di comunicarlo ad altri. Ecco, quando dentro di me, quando mi guardo, trovo un buco e non trovo che sono importante se non quando impongo il mio volere, se non quando esigo che gli altri facciano come voglio io, o avere i soldi, il prestigio per chiedere agli altri di fare, di obbedire ai miei ordini, è ovvio che lì stiamo falsando completamente anche il senso del nostro benessere, della nostra gioia, della nostra felicità. Lei fa parte dell'Associazione Libera. Cosa ha fatto in questi anni per combattere le mafie, ma soprattutto per diffondere il valore della legalità? Libera nasce, proprio tu accennavi prima, all'epoca delle stragi. Nasce nel 94 con il preciso intento di organizzare, di coordinare, di lavorare in rete tra società civile, perché il problema della mafia, il problema della legalità non è un problema soltanto della polizia, dei poteri giudiziari, ma è un problema culturale, è un problema di tutto il paese. Ecco, allora, Libera che cosa sta facendo? Intanto sta lavorando su un numero grandissimo di scuole, di istituti superiori, di università, facendo progetti di educazione. Poi Libera, chi volesse visitare il libro, il sito web se ne rende conto, informazione, dati, notizie, avvenimenti che nei grandi notiziari e nei grandi giornali non emergono, ma che sono una realtà. Quindi informarsi per capire che cosa sta succedendo. Poi un grande lavoro a seguito della legge della confisca dei beni ai mafiosi e l'utilizzo comune e l'utilizzo sociale dei beni dei mafiosi, sta aiutando cooperative locali affinché nei territori confiscati alla mafia si possano produrre cooperative, fonte di lavoro e segno di una civiltà del bene, del lavoro, contro l'inciviltà di chi vuole soltanto approfittarsi dei beni comuni per propri e meschini interessi. Poi c'è tutto quanto un'azione educativa attraverso lo sport e c'è un grande lavoro di accompagnamento alle vittime di mafia, ai familiari delle vittime di mafia, e la prova ne è stato chi ha potuto seguire la giornata della memoria dell'impegno il 17 marzo a Genova, ha potuto vedere centinaia di familiari di vittime di mafia che hanno vissuto in maniera forte, intensa, e ci hanno restituito anche la necessità di un impegno, e questo è un lavoro che Libera fa, cioè sostenere, accompagnare i familiari di vittime di mafia perché passino dal lutto, dalla sofferenza ad una testimonianza e a una vita che possa essere vissuta come stimolo per tutto un paese che ha bisogno di ritrovare fonti autentiche, sorgenti d'acqua fresca per ringiovanire la propria democrazia. Grazie infinite, credo che vedere crescere pomodori e olive nei giardini dei boss sia la cosa più bella. E anche molto buona l'uva che fa un vino molto buono, forse ancora molto più buono proprio per dove cresce. Grazie infinite Don Giorgio per queste sue parole. Saluti a tutti. Grazie. Ricordiamo la beatificazione di Giuseppe Toniolo, uno dei padri nobili dell'impegno sociale per i cattolici, che è in programma a Roma domenica 29 aprile. L'Ufficio per la Pastorale Sociale del Lavoro della Diocesi organizza un pellegrinaggio a Pisa e a Roma da sabato 28 a lunedì 30 aprile. Per informazioni e iscrizioni potete chiamare l'Ufficio per la Pastorale Sociale del Lavoro allo 049 877 1705 il pomeriggio dalle 15 alle 18.30. Ci troveremo nuovamente martedì prossimo, sempre alle 18.25, sulle frequenze di Blu Radio Veneto. Potete riascoltarci sul podcast del nostro sito o potete contattarci mandandoci una mail a redazione@bluradioveneto.it. Da Andrea Cantone è tutto, l'appuntamento con noi è a martedì prossimo. Il bene di tutti, parliamone. Rubrica settimanale a cura della Pastorale Sociale e del Lavoro della Diocesi di Padova.